Thank you. Rieccoci tornati ad Up con la seconda ora, la sezione più lunga di questa puntata dedicata al 2018 album che sono usciti in questo anno. E siamo partiti con gli Huntsmen, The Last President, al loro American Scrap, e ora siamo in ascolto di Io La Tengo con Ashes da There's a Riot Going On. Standing here with nothing to find, it's been similar sounds to mention. I wait for what to go by. I had to give it to no one. Crooked smiles are broken. Thank you. love, to feel that love, loving, loving. To feel love, to feel that breath, the cup and the reaching hand, the extended finger and pop. Was it once love? Was it once to feel love? Look down from above, shape and form, the color and tempo, entangle, to feel love, once buried, once lost, recovered and polished, shining and precious, cherished, to feel love. Was it once love? Was it once love? Was it once love? Was it once? To blow the dust, to clear the debris, and trace the shape of a loved one's life. Extend the finger and was it once? Desperation, a space. Siamo giunti quasi al termine di Up e vi faccio il riassunto di quello che abbiamo ascoltato in questo mix dedicato al 2018. Dopo Io la tengo siamo passati a DC and Cake con Cover the Momentum da Any Day, ennesimo album della formazione americana. Sempre in America abbiamo trovato Breeders con Walking with a Killer, Tangents con Terracotta dal loro Now Buddies, Stewart e Staples tornando nel vecchio continente con A New Real dall'album Arrhythmia, Rival Consoles con Sans Abandon, e ci siamo avvicinati appunto al termine di questa puntata con Conan Mocassin dalla Nuova Zelanda da Jazz Busters e la canzone era Charlotte's Tongue. Ora mancano solo gli fratelli Serravalle dall'ottimo lavoro che hanno pubblicato quest'anno con lo Scioglilingua, che non provo neanche a ripetere, ma con la speranza che siano in studio da noi nel 2019 di nuovo Radio Ne Furlane per parlare di come proseguiranno la loro attività dopo questo fenomenale lavoro. Intanto abbiamo ascoltato Chi viene il cocco, avevamo già parlato del loro lavoro un po' di puntate fa, e comunque continuiamo con l'ascolto e poi ci risentiamo per i saluti finali. Thank you. eccoci giunti alla fine di Up, dopo queste due ore dedicate alla musica targata rigorosamente 2018, è sempre tempo di così di bilanci quando si arriva a dicembre inoltrato, e credo che non si, ovviamente non si possa definire una carrellata esaustiva, anche perché di musica anche quest'anno ne è uscita a vagonate e si fa quello che si può, e c'è ancora tanta musica da ascoltare, da scoprire, senza ovviamente il paraocchi, e scusatemi se a volte magari il salto è stato tra un brano e l'altro è stato particolarmente impegnativo, ma a noi piace fare così, ormai l'avrete capito dopo 15 anni e passa di trasmissioni qui a Radio De Furlan, il team di Up non si pone limiti in particolare, se non il limite di non passare musica di cattivo gusto, ma penso che questa sia un po' una prerogativa di tutta Radio De Furlan e dei grandi collaboratori che fanno parte del nostro roster. Bene, penso di aver detto tutto, e Up torna naturalmente come ogni venerdì dalle 19 alle 21 anche la settimana prossima. Con questo mi congedo da voi e da Nick D'Andrea vi un augurio di passare un incantevole weekend con ovviamente Radio De Furlan.